tuo Parenzo sembrate a volte i deregi evoluti, avete un enorme sarchiappone lì come Walter Chiari ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Parenzo, ufficialmente a partire da oggi non ci sono più le chiacchiere, la Pascale, Luxuria, eccetera eccetera. Ufficialmente da oggi Forza Italia è diventata anche Forza Gay, il partito dei anche, non solo naturalmente, anche il partito dei froci. Chiaro? Chiaro a tutti? Perché ha parlato lui, ha parlato il Berlusca, cioè qui non ci sono più le chiacchiere, la Pascale che dice una cosa e Gaspari che ne dice un'altra, eccetera eccetera. Qui c'è lui che ha parlato, conferenza stampa per presentare questo fantomatico dipartimento delle libertà civili che non vuole dire una mazza, e che significa una specie di, no, di copertura per dire: noi voteremo una legge sulle unioni civili, cioè sul matrimonio gay, addirittura modello tedesco, cioè in parte c'è anche l'adozione. Parla il Berlusca, sentitelo, è un po' all'inizio un po' così, non particolarmente in forma, poi qualche battuta l'ha regalata, insomma ogni tanto si è rivisto oggi il Berlusconi di un tempo. Abbiamo ultimamente esplorato molte legislazioni e siamo arrivati per ora alla conclusione che la legge tedesca per le unioni civili, le chiamano le unioni registrate, rappresenti un giusto compromesso tra la libertà di tutti e il rispetto profondo anche di quei valori a cui noi teniamo molto, che sono i valori cristiani e i valori della famiglia tradizionale. Vabbè, la realtà è una sola, ragazzi, ma perché non ce la dobbiamo dire la verità, caro Parenzo? L'abbiamo detta più volte, solo noi siamo in grado di dirla chiara, semplice, lampante per tutti quelli che ci stanno ascoltando. Quando era al governo, il signor Berlusconi aveva la Chiesa lì, cioè che lo teneva un po' al guinzaglio, magari voleva in qualche anfratto del suo cervello proporre una legge come questa, però sì. Poi c'era il signor Ruini, il cardinale Bagnasco, il cardinale di mio nonno in Carriola, il cardinale di mio cugino, e questi qua che dicevano no, non si può fare perché l'elettorato, perché la Chiesa, eccetera. Quando era il governo c'era. Solo. Vabbè, ma soprattutto. Solo. Soprattutto ma c'era l'alleanza con la Lega, vabbè, c'erano i cattolici. Ma d'accordo, sì. Però ma questo è il Berlusca del 94, amico mio. Ma nel 94, il Berlusca. No, tu adesso io figo il Ma c'è tempo, critico, ma c'è tempo, amico vabbè, mio. Vabbè, c'è vabbè, tempo. Vabbè, intanto abbiamo detto, vabbè. La cosa più comica è un'altra: ci siamo sempre battuti per i diritti degli omosessuali. Questo l'ho trovato veramente comico. Ma dove ti sei battuto, amico mio? Nel tuo stile di vita? Sì, certo, nel tuo stile di vita super libertino, non c'è dubbio. Però non ti sei battuto per i diritti degli omosessuali? Questo non si può dire. Sì, certo, ne hai assunti tantissimi. Questo non c'è dubbio. E anche per quanto riguarda i diritti di chi è unito da un vincolo di amore ad una persona dello stesso sesso, noi ci siamo sempre battuti affinché questi diritti fossero affermati. No, questo no, dai, caro Berlusca, questo no, perché poi non possiamo ricordare le barzellette, non solo le barzellette, ma soprattutto le tirate che facevi, certo, sempre col sorriso sulle labbra, per esempio. Da sempre io conduco una attività ininterrotta di lavoro, e se qualche volta mi succede di guardare in faccia una bella ragazza, meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay. Questa era nel 2010, cioè non 20 anni fa. Vabbè, Vabbè, però questo è il passato, possiamo dire, no? Questo qua è il passato. Certo. Ma che cosa dice la Lega? Lascia perdere questa roba qui. Su un'altra grande apertura che oggi ha fatto Berlusconi, perché poi magari ha detto una cosa che verrà approfondita, magari la correggerà. Ha detto di essere favorevole allo ius soli, cioè agli immigrati che diventano italiani dopo un ciclo di studi. Poi detta così non significa, anche qui non significa nulla, non significa niente. Però. Salvini, hai capito? Riteniamo che dare la cittadinanza a qualcuno, figlio di stranieri, che però vivono in Italia, sia addirittura doveroso quando questa persona è stata allieva di un ciclo scolastico che gli consente di parlare non solo bene. Allora, per ricordare il clima, però, il clima che ancora si respira in Italia, su questi temi qui, beh, abbiamo ripescato una signora, una suorina che partecipò, credo, a un Family Day, se non sbaglio, a qualche manifestazione del genere, 2 anni fa. Una suorina, senti la moderata suorina, 2012. Cosa ne pensa lei delle coppie omosessuali? Che vanno atterrate, annientate, perché la famiglia esiste da quando esiste Cristo e sino dall'Antico Testamento. Quindi viva la famiglia, basta che. Secondo me non è vera questa qua, però questa suora non è vera, non è possibile. Io ancora sospetto che non sia vera, cioè la vedi nel filmato, è vera, lei è vestita come una suora, però io non. E mica è una comparsa, scusa. Ma no, ma che ne so, non lo so, magari è una militante. Però di. Io esulto, poi ne parleremo. Io quando sento queste cose esulto. Perché il Berlusca, liberatosi degli amici cattolici e degli amici leghisti, beh certo, senza responsabilità, liberale e libertario, senza responsabilità di governo, senza responsabilità di governo è facile, però tutto vero, però, tutto vero, tutto però vero. aspetta un attimo. Qui c'è una cosa che riguarda la Boldrini, di nuovo la Boldrini è tornata all'attacco, di nuovo il nostro amato presidente della Camera, sulla questione che insomma non ce la fa, vuole essere chiamata la presidente, la presidentessa, come diavolo. Ancora? Sì, ancora. Ha bisticciato oggi con un deputato di Forza Italia, ex presidente della regione Liguria, Biasotti, il quale dice: ho chiesto a un onorevole di restituirmi il mio genere di appartenenza. Ce l'ho affermato ad un lungo corridoio del transatlantico. Gli ho detto: lei deve chiamarmi la presidente o la presidentessa, non so, non mi può continuare a chiamare come un maschio? Senti. Esco dall'aula dopo per l'ennesima volta essere stata chiamata signor Presidente e in un corridoio della Camera mi fermo perché vedo il deputato che da ultimo mi aveva chiamato signor Presidente. Ritengo di avere un certo garbo nei miei modi, non è che vedo una persona in mordo. Quindi mi avvicino e dico, senta, do del lei educatamente, dico, le sarei grato se noi riuscissimo a trovare un punto di accordo. Lei è d'accordo con me che io non sono un uomo? Lui mi guarda e dice, certo. Dico, allora magari la prossima volta, se mi rivolge la parola, non dica signor Presidente, perché mi fa confusione. Io apprezzerei se lei mi restituisse il mio genere di appartenenza con signora Presidente. Ragazzi, ma tu ti rendi conto che questa signora, il presidente, io lo continuo a chiamare il presidente della Camera perché non me ne frega niente, si alza dallo scranno, va in transatlantico a cercare un signore che probabilmente non la voleva pigliare per il culo, ma semplicemente nel parlare uno dice il presidente della Camera, no, maschio o femmina che sia, certo. E gli fa una filippica, dai su, ma è una cosa pazzesca. Ma senti, in un'altra, poi chiudiamo questo capitolo amarissimo, secondo me, però sempre significativo. Una che si chiama Locatelli del Partito Democratico, senti cosa propone? Senti Locatelli, certo. Sì, ma senti cosa propone, amico mio, cosa propone? Via Locatelli. Cosa propone? Locatelli. Guarda, senti, a proposito di perdite di tempo, senti. Allora io suggerisco all'Aula di dedicare una sessione all'uso del linguaggio. Guardate, per fortuna la lingua si evolve e la lingua è espressione di categorie mentali e di situazioni. Certo, non avevamo nel passato le deputate, perché c'erano soprattutto quasi esclusivamente deputati. Non parlavamo di ingegnera, perché non c'erano le donne ingegnere, ma parlavamo di cameriera. Cioè, questa propone una sessione parlamentare sull'uso del linguaggio. A calci in culo, altro che l'uso del linguaggio. Vabbè, abbiamo con noi però calci, no, calci, diciamo metaforici. Mi pare un po' eccessivo. Ma diciamo non fare il moderato, calci metaforici, no, dai. Non puoi proporre la sessione sul linguaggio, dai, crudo, su. Usi un linguaggio crudo. Vabbè, non c'è bisogno di spiegare, è talmente chiaro. Allora, aspetta un attimo, fermo. Qui abbiamo uno dei protagonisti della giornata, perché oltre a essere un assaggiatore, oltre a essere, secondo sentenza di primo grado, sostanzialmente un magnaccia, ma noi non ci crediamo ovviamente, addirittura viene accusato di essere un ricattatore. Questo è brutto però. Direttore, buonasera, Emilio Fede. Allora, carissimi amici, buonasera. Mi spiace che nella consueta ironia che qualche volta caratterizza i nostri incontri, non la possiamo utilizzare stasera. Quello che sta accadendo è un giallo che secondo me nella storia dei gialli non ha precedenti. Cioè, spiegaci, che tipo di giallo? Beh, voglio dire, questa storia di un ricattatore ha un nome ben preciso. Si parla di quel presunto personal trainer, che non bisogna chiamare così, perché personal trainer sono anche persone molto per bene. Gaetano Francesco Ferri, indicato nella storia, nella sua storia e nei rapporti di giustizia come 27 anni, a 27 anni per tornare alla giornata straniera, poi arrestato a Milano perché indossava la divisa di maresciallo dei Carabinieri e lo ricevo, dice di essere mandato dalle Demora. Attenzione, le Demora erano in carcere e lui dice che era in carcere con le Demora. Io non potevo chiamare San Vittorio, mi passate la cella tal dei tali che devo parlare con le Demora, quindi verificare. Non l'aveva mandato le Demora. Lui, e chi l'aveva mandato? E non lo so, se stesso. Vabbè, però scusa, un attimo, fermo. Emilio, io so che sei un fiume in piena e sei molto incazzato. Chiaro. Ricapitoliamo perché sennò la gente non capisce. Sì. Cioè, la questione è molto semplice: che tu sei accusato, pare che ci sia un avviso di garanzia già, di avere ricattato Mediaset con delle foto che ritraggono alcuni dirigenti, tra cui il capo dell'informazione Mauro Crippa, insieme a dei transessuali. Per questi sono. Sì, sembrerebbero fotomontaggi, ma torniamo subito, guarda, c'è il traffico, poi tutto lo spazio che vuoi. Emilio Fede ci racconta la sua verità su questo caso clamoroso. Emilio Fede, secondo le accuse, ricatterebbe o avrebbe ricattato i vertici di Mediaset. Che palle la Boldrini, diciamolo francamente, che non possiamo fare neanche... che palle la Boldrini. Ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Allora, è con noi Emilio Fede, ex direttore del TG4, nostro amico, che oggi però non può scherzare con noi, non può ridere sulle cose dell'attualità, non può giocare, perché qui è in ballo una cosa molto grossa, Emilio. Cioè, allora, specifichiamo questa cosa qui, queste foto esistono o non esistono? Sì, esistono ovviamente. No, allora ti posso dire, è esistita una foto, due copie di una stessa foto. E quando questo signore Gaetano Francesco Ferri mi ha portato, pregandomi di non dire mai che me l'aveva portato lui, ma che l'avevo ricevuto così. Io che cosa ho fatto? Immediatamente quella foto l'ho portata ad una persona molto responsabile dell'azienda. A chi l'hai portata? No, questo no, aspetta. Vabbè, si deve dire. Avanti, se no si fa... Aspetta, allora, aggiungendo, questa foto è truccata. Era chiaramente truccata. Era la foto che riguardava Crippa, del quale insieme a un transessuale. Una foto in un atteggiamento che manco voglio ricordare. No, ricordiamolo. Tanto tu dici che è un fotomontaggio. È un rapporto transessuale, ma sicuramente truccata, era impossibile. Sì. Ma detto, ma scusa, è impossibile. Allora, io la foto. Ma c'era anche c'era un'altra foto con Confalonieri? Mai visto. Questo era un forsennato ed è un forsennato che si è inventato tutto. Sì, d'accordo, però scusa un attimo, perché sennò la gente non capisce, perché tu vai a ruota libera, giustamente. Allora, la cosa è questa, tu prendi queste foto da questo signore. Quante foto sono? Una, due, tre, quante foto sono? No, erano due foto uguali, le stesse. Due foto uguali con Crippa in atteggiamenti equivoci con questo transessuale. Chiamiamolo così. Allora, chiamiamolo così. Allora, io voglio capire, queste foto, perché tu a un certo punto c'è scritto sui giornali di oggi, secondo quello che raccontano gli investigatori, che tu a un certo punto, quando sei stato licenziato, arriva un signore che è capo del personale insieme a un avvocato, all'avvocato del gruppo, e ti dicono di essere licenziato. Tu tiri fuori queste foto e dici, ecco cosa fanno i vostri capi, è vero o no? No. Allora, se me lo dici, insomma, fai dire, io ricevo questa foto prima del licenziamento, la consegno ad una persona autorevole aggiungendo questa foto è truccata. Quando arriva quel 28 sera, io vengo licenziato, attenzione, io non avevo motivi di ricatto, tutt'altro, perché io lasciavo il TG4 il 1 luglio, era previsto, e in cambio, grazie a Crippa, che era il direttore dell'informazione, avevo un incarico ancora più importante, diventavo direttore. Adesso non esageriamo, esecutivo. Più importante, dai, comunque, eri incazzato come una bestia, adesso non esageriamo. Ma dai. No, fammi dire, direttore esecutivo editoriale di tutto il gruppo. Avevo una D'accordo, dunque tu vuoi dire non avevi motivo di ricattare ma me. No, però scusami Emilio, allora sta scena in cui tu incazzato tiri fuori ste foto e dici questo fanno i vostri dirigenti, allora, e non è che se la possono essere inventata, l'avrei fatta. No, ascolta, allora io finisco il telegiornale e ricevo il licenziamento in una maniera drammatica, io avevo questa foto, dico però acciderba, questo mio amico non poteva proteggermi. Ecco, e tiri fuori la foto. Sì, ma non l'ho data in mano a loro. No, ma questo tuo amico chi? Crippa? Crippa? È nato di Crippa. Vabbè, tu praticamente hai detto questo Crippa mi ha licenziato, ecco la foto, ecco quello che fa in privato. Dai, sarei stato arrabbiato. Ti prego, non ho aggiunto nessun giudizio. La foto l'avevo già consegnata 3-4 giorni prima. E allora perché la tiri fuori così? Un attimo di rabbia? Un attimo di rabbia, dire ma come mi licenziate così? Senza neanche avvertirmi, mi hanno licenziato, sappiamo bene in quali condizioni. Vabbè. Quindi voglio dire, allora, questo personaggio è molto importante, uno che ammette di avermi registrato per un anno ma questo e mezzo, lo sappiamo. Vabbè, ma è molto grave. Sì, adesso d'accordo. C'è però un'ansia. Voglio dire, tu hai qualcosa da questo punto di vista, però tu sei indagato per associazione a delinquere a scopo finalizzata al ricatto eccetera però, perché sembra che tu volessi con in mano queste foto ricattare i vertici di Mediaset e costringerli, che ne so, a farti avere un contratto più forte eccetera. Ma avevo già il contratto per altri 5 anni, magari uno con le foto in mano. No, le foto le aveva già una persona per altri 5 in anni. Cosa hai sbagliato? In cosa hai sbagliato a fare questa mossa, a tenerti questa foto? In cosa hai sbagliato? No, io la foto non l'ho tenuta, l'ho data a chi di dovere dicendo però poi te la sei tenuta nel cassetto. Sì, l'altra foto la tenevo nel cassetto. Una l'hai data e una te la sei tenuta. Ma sì, l'avevo tenuta, ma mica per ricattare che cosa? Se avevo già un contratto per altri 5 anni, non c'è. Queste sono le accuse, no. Che ti devo fare? Sei incazzato? Come sei? Di umore? Come sei? Sono, direi, uno che tira le somme e si rende conto che c'è nei miei confronti l'intenzione di farmi uscire di scena comunque. Sei dimesso, ma non è che stai pensando a qualche follia in queste ore? No? Ti sento la voce bassa, cioè ti senti accerchiato? Certo, direi di sì, no? Mi sono trovato addosso il caso Rubio e non c'entro niente. La valigetta e i 2 milioni della Svizzera. Di euro che andavano a dire, che non è vero assolutamente niente, ma mi trovo questo tutto a te, amico mio, perché capita tutto, perché un personaggio come questo appena uscito di galera, ho capito, ma chi l'ha mandato? Chi te l'ha mandato? Ma lo vorrei sapere. Lui ha detto che l'ha mandato l'Ele Mora, non è vero, l'Ele Mora, e io ci credo. Vabbè, è spuntato da nulla, così, dai Emilio. No, certo, ha addocchiato me per una sorta di chiave per fare una serie di ricatti. No, fammi dire questa cosa che è importante. Cioè, ma perché Mediaset non ha denunciato tutto prima, secondo te? Perché non ha denunciato tutto prima? Ma dato che tu gli avresti consegnato sta foto a qualcuno, poi a chi non. Sì. A chi l'hai consegnata sta foto? L'ho consegnata. No, per favore non aggraviamo la situazione. No, ma diciamolo. No, non lo posso dire perché non avrebbe senso. A Crippa stesso, momento. Hai detto di aver cercato Crippa e non l'avevi trovato. Bravo, ho cercato Crippa proprio quello stesso giorno, dicendo firmo l'accordo, però ti sto cercando da diversi giorni. Ma è un giallo, Emilio, è un giallo pazzesco. Posso dire, c'è una procura che sta indagando su mia precisa denuncia. di una verità che sarà certamente clamorosa. Beh, la denuncia veramente da, cioè, sei tu indagato. Cioè, ma io voglio la maglietta dei razzi, la sto aspettando. Cioè, la maglietta Radio 24, ma che ci devo fare con la maglietta Radio 24? Voglio la maglietta dei razzi. Comunque io non voglio più sapere nulla, non voglio più ricevere nemmeno mezza critica, ma nemmeno mezza sulla presenza alla Zanzara di Marione Borghezio. Ma poi non voglio sentire più né A né B né C, niente. Questi puristi, questi moralisti, questi precisini, questi signori che scrivono stasera su... Stasera vado a Santoro. Esatto, bravo. Allora, stasera hai detto la cosa giusta, stasera è ospite nel salotto, come dire, più sanguigno, però nello stesso tempo anche nel salotto classico della... Beh, nel salotto dove si è parlato della trattativa Stato-mafia, dove, no? Sì, però nel salotto, come dire, no? C'è Bauro, antirazzista per definizione, c'è gente che Borghezio lo guarda, no? Dall'alto in basso come se fosse una schifezza umana. E... No, però c'è da dire che il signor Santoro, che è uomo di televisione, secondo me l'ha sempre snobbato. È una puntata sul razzismo, sugli immigrati, eccetera. Non è uno schizzinoso. Ma fa benissimo. No, io sto contestando di solo questo, dico che non è uno schizzinoso. Però ti dico. Appello va rivolto a tutti quei signori della buona cosiddetta stampa che ci hanno attaccato, dice, perché non si deve invitare a loro, ma non a Santoro, capito? Contro Santoro, io sto dicendo semplicemente che molta gente puzza sotto il naso, eccetera, eccetera, considera. Certo. È invitato a servizio pubblico. Marione, va. Non bisogna, diciamo, infrangere quello che ha fatto il Padre Eterno, ci ha fatti diversi. I bianchi devono andare con i bianchi e i neri devono andare con i neri. Ma mi sembra doveroso. Ma come doveroso? Mi sono moderati! Moderati un cazzo! Fiorare simpatico. Oggi che è diventato persino reato alzare il braccio, che alle volte uno non so, alza il braccio così. Perché senza... non deve essere reato alzare. Io sono d'accordo con te su. Ma tutti i gesti non devono essere reato. Cioè... Dico che se la Cassazione trova il tempo di andare a mettere nero su bianco che il saluto romano è un reato, vuol dire che siamo nelle mani di nessuno. Mi sono moderati! Moderati un cazzo! Ma vi ricordate cosa disse su Breivik, no? Quello che ammazzò un'ottantina di persone su in Norvegia. Buone alcune delle idee espresse al netto della violenza, direi in qualche caso ottime. Ottime idee quelle di Breivik. Mi sono moderati! Moderati un cazzo! Vorrei precisare e dire alla sinistra militante che guarda Santoro, a qualcuno che là dentro ancora resiste sull'antirazzismo militante contro la Lega, tipo l'amico Vauro, bene, che l'altro giorno da noi il signor Borghezio, l'amico Borghezio, con cui vado tranquillamente a prendere un caffè, a parlare, a discutere, eccetera, ha detto che i neri devono stare con i neri e i bianchi devono stare con i bianchi. Chiaro? Dici tre. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Il premier canadese Harper, dopo l'attacco al Parlamento, non ci faremo intimidire. Secondo la polizia, Zehaf Bibou, il terrorista cresciuto in casa, ha agito da solo. In Occidente migliaia i giovani irretiti dalle campagne mediatiche dei predicatori del terrore. La frustrazione delle periferie si trasforma in rabbia e violenza. Papa Francesco davanti ai giuristi in Vaticano. La pena di morte va abolita in tutte le sue forme. Abolire anche l'ergastolo, una pena di morte nascosta. La lettera di Bruxelles, conti non in linea, l'Italia chiarisca. Polemiche per la pubblicazione del testo, che secondo la Commissione doveva rimanere riservato. Sulla lettera dell'Unione Europea non ci sono grandi problemi, spiega Renzi. 2 miliardi, possiamo trovarli anche domani. Barroso è irritato, il tempo dei segreti è finito. Ora all'Italia servono cambiamenti veri, lo dice Napolitano al Quirinale con i Cavalieri del Lavoro. L'incapacità di dialogo e d'intesa, aggiunge, bloccano il cambiamento. E Berlusconi dice sì alla legge sull'unione gay sul modello tedesco proposta da Renzi. Pronto a modifiche sulla legge elettorale, bisogna favorire il bipolarismo. Di Ancona, Daniele. Tra un po' me la faccio addosso, me la sto trattenendo. Due punti solo. Tu non gli vuoi bene a Fede, perché quando gli fai le interviste così, lo fai cadere dal pero. In che senso? Scusa. Ma scusa, abbi pazienza. Ma andatevi a risentire quello che ha detto. Allora, queste foto prima erano due, poi non ce n'erano più, poi ne esce fuori un'altra. No, che ha detto che ne aveva due, ce n'erano due. Una che ha dato a quelli di Mediaset, un'altra che ha tenuto con sé. Ecco, poi mi spiegherai il perché se l'è tenuta. Perché no, aspetta, aspetta, che c'è, che è ancora qui. Emilio? Sì, ciao. Ciao, allora scusami. Guarda, scusami. Vorrei essere soltanto molto semplice. Questa storia ha dell'incredibile. Cioè, è una strategia, lo dico con serenità, sì, per farmi uscire di scena completamente. E poi tutto questo avviene a 20 giorni dalla sentenza, che poteva anche o potrebbe anche assolvermi. Vabbè. Allora, è una strategia. Ma chi è il burattino di questa strategia? Chi è il puparo? Mi chiedo. Ho capito. Ma chi è che ce l'ha con te? Chi è che ce l'ha con te? Direi che c'è una buona parte di persone che ce l'ha con me. Ma dove? Ma in generale. In generale, che vuol dire? Ma certo, dai. Ma certo, ero troppo famoso, ero troppo vicino a Berlusconi, ero troppo tutto e andavo ridimensionato. Cioè, dunque, allora, dici una parte di Mediaset ce l'aveva con te? No, io non dico Mediaset, ci mancherebbe altro. Ma ti immagini, è possibile che io abbia delle foto strane e dico. Ma questa foto, tu, Parenzo, prima ci chiediamo una cosa insieme a David. Sì. Questa foto di cui parlavi, no? Sì. Fotomontaggio, no? Tu confermi un fotomontaggio? Sì, ma io alla persona alla quale l'ho consegnata ho detto, tieni, aggiungendo comunque che è una foto truccata. Ma perché te la sei tenuta l'altra? Questo che non capisco. Perché non le hai consegnate tutte e due? Ma no, ma l'altra, ma così erano due foto uguali. Beh, ma così questo... uno le consegna tutte se non vuole utilizzare. Ma non ha importanza. Non ha importanza. Ma certo. Ma dove sta quest'altra foto adesso? Ma io poi l'ho strappata. Ah, l'hai strappata? Ma certo. L'ho strappata. Ma scusa, ma se dice che la polizia facendo le perquisizioni l'ha trovata pure a casa di quest'altro, altre foto, queste certo, foto qui. Già, ci mancherebbe altro, da lui le trovavano. Guarda, credi. Tu la foto l'hai strappata? Certo, ma lui ha fatto sempre tutto lui. Per un anno e mezzo questo personaggio. Questo personal trainer. Sì, non offendiamo il personal trainer. Ma come lo definisci questo qua? Un delinquente, un criminale, testa di cazzo, un coglione? Come No, un grosso criminale. Scusami, non è che uno viene condannato a 15 anni soltanto. Ma questo qua è in libertà adesso? Attenzione, è in libertà provvisoria. Cioè, vale a dire, se lui... Vabbè, ma questo qua va intervistato assolutamente, va preso. Va intervistato, lui pensa... che mi ha detto, mi ha mandato un messaggio, se ancora ti azzardi a dire le cose mie, io metto fuori anche la seconda parte. Lui ha fatto delle registrazioni, perché ti ha registrato, parlavi della mafia, Berlusconi, credimi, no, erano registrazioni e nastri falsati. Vabbè. Vedrai che verrà fuori una verità che sarà sconvolgente. Ma io non capisco, ma scusa, le persone normali, gente che registra foto false, è un puttanaio, ma non capita, la gente è normale, io penso anche Luciani è normale, credo. Ha ragione questo signore. Ma David, che è David, non è che... No, è David, scusami, David, hai ragione. Ti sento molto abbacchiato, però scusa Emilio, voglio chiedere una cosa, ma tu hai veramente paura in questo momento per la tua vita, no? Sì, certo. Hai paura? Ho consegnato un mese fa ad una certa procura la confessione di uno dei personaggi che era complice di questa vicenda. Quale vicenda? della vicenda del signor Gaetano Ferri. Cioè tu hai paura che qualcuno ti possa ammazzare? Ma nella persona che mi ha raccontato le cose, lui ha fatto una proposta di eseguire un episodio nei miei confronti. Vabbè, ma è tutto un giallo pazzesco. È pazzesco, guardate, credetemi, io dico. Però scusa, ma tu non pensi di. Adesso io ti conosco e so che questa cosa ti provoca un dolore pazzesco. Sconvolgente. Ma non pensi, basta, facciamola finita. Ma ammazzo. L'ho pensato. Quando l'hai pensato? Anche un'ora fa, prima di parlare con voi. Ma veramente? Assolutamente sì. Però voglio arrendermi soltanto quando ho visto quella persona in galera, perché un magistrato soltanto se lo guarda con la svastica, le cose, eccetera, è un personaggio abominevole. Ma stai piangendo, Emilio, no? No, ti ho visto, ti ho sentito. Sì. Dimmi una cosa, ma... Non per me, per la mia famiglia e per la mia storia. Questo è un farabutto vero. Quando l'ultima volta l'ho visto, mi ha chiesto ancora 350 euro per pagare l'affitto, mi ha detto: ma io ho bisogno di tanti soldi e comunque ho bisogno e farò di tutto per averli. Lui mi ha ricattato, altro che io ricattare lui, mi ha ricattato. Ma chi l'ha mandato? Chi l'ha mandato? Ecco, porca miseria, ladre, quello che vorrei sapere. Puttana Eva, quello. Capito? A orologeria? A orologeria subito dopo che Berlusconi era stato. Ma tu temi adesso, che qualcuno, che ne so, per esempio, ti possa levare il contratto con me una volta che esce questa storia qua, qualcuno dirà. Ma guarda, te ne fotti. Direi che a questo punto io voglio innanzitutto arrivare alla verità su questo personaggio. Può non arrivare, non può. Non è che uno. Cioè, capito? Se era una cosa mia, mi avrebbero già arrestato. Ascoltano lui come fosse l'oracolo della verità, e io penso che ho consegnato delle prove inconfutabili e sono mesi che attendo di essere chiamato. Vabbè, però non ti abbaglio, stasera ti vengo guarda, ti sento veramente abbattuto, sconvolto. Davide, abbraccia un attimo Emilio, perché lo sento veramente. No, ma io sono veramente dispiaciutissimo per tutta Vabbè, questa senti, cosa. Però, dillo chiaro, dobbiamo chiudere, però dillo chiaro, Emilio. Io non ho mai voluto ricattare Crippa, Mediaset, dillo ma apertamente. Ma io vi dico, caro Mauro, dici, caro Mauro, non ti ho mai voluto. Ci sta ascoltando. Certo. Eravamo amici, quando lui mi ha offerto il nuovo contratto c'era da ringraziare. Diglielo chiaramente, non ti voglio. Mauro, quel giorno lì io ti ho mandato un messaggio dicendo: Mauro, vediamoci, mi ringrazierai, perché gli volevo consegnare questa foto. E perché cazzo te la sei tenuta questa foto? Perché? No, per darla a lui, perché una l'avevo dato qualche giorno prima ad una persona, un'altra, non lo far dire, ti prego. Ma certamente l'altra a Berlusconi gliel'hai data allora? No, io non ho detto Berlusconi, non l'ho uscito neanche, non lo voglio neanche citare. Io ho perso tutto ciò che in 60 anni avevo guadagnato con la mia storia e la mia famiglia. Io ho chiesto alla mia famiglia di dimenticare il mio cognome. Come dimenticare il tuo cognome? Perché? Perché si chiami, no, scusa. Perché? Perché ti dimentica? Cioè hai chiesto a tua moglie, a tua figlia di dimenticare il tuo cognome? Certo. Cioè di cambiare... Quello di mia moglie che è più prestigioso, scusa, non posso... Va bene, ciao Emilio, ti saluto, ti abbraccio. Ciao, ciao. Pronto, buonasera, dottor Cruciani. Io l'amo sempre, lei è l'uomo ideale e se fosse una donna io le farei la corte sfrenata. Sei ancora a casa, Emo? Amici, adesso vi faccio sentire un deputato che dice che la sua vita è peggiorata da quando sta in Parlamento. Si tratta di Luigi Marino, ex, a me fanno impazzire questi qua, gli ex di Scelta Civica, dopo il crollo di Monti e di tutti quelli che si è portato dietro con le liste bloccate, bisogna sempre ricordare questo, con le liste bloccate. Crollo di Monti, alcuni sono andati nel PD, altri hanno formato piccoli gruppuscoli. Questo Luigi Marino è del gruppo Per l'Italia. Per che cazzo vuol dire Per l'Italia? Perché chi è contro l'Italia? Sì, forse i leghisti sono contro l'Italia. Però Per per l'Italia. Come si fa a chiamare una cosa per l'Italia? Che cazzo vuol dire per l'Italia? Mi impazzisco per queste cose io. Gruppo per l'Italia. Luigi Marino. Frustrazione. È frustrato. Signor Luigi Marino è frustrato, capisci? È frustrato a stare in Parlamento. Sei pentito di aver mollato le cooperative? Direi di sì. Ah, perché? Quindi per il Senato, certo, vuol dire frustrazione? Certo, io ho nettamente peggiorato sia la qualità della vita che le retribuzioni, che il tempo libero. Cioè tu mi stai dicendo che come conf cooperative guadagnavi più che come senatore? Non c'è dubbio. Senti, cosa fai esattamente per noi in Senato? Per voi, per i cittadini, non lo so se faccio qualcosa per l'Italia. Cioè non sa cosa fa in Senato, cioè non sa se fa qualcosa per l'Italia. Ma uno non lo deve sapere, uno deve fare, cioè deve fare quello che si sente di fare. Proporre provvedimenti, votare, impegnarsi. Poi magari dici, vabbè, non ce l'ho fatta, non si può cambiare nulla. Ma non è che uno può dire, non so che ci sto a fare. Allora dimettiti, vattene, no? Certo, c'è anche il signor Carlo Sibilia. Signor Carlo Sibilia dei 5 Stelle, amico mio. Che cosa ha scritto su Facebook? Chiamiamolo Facebook. Facebook. Facebook. I paesi europei sono in forte difficoltà. Vabbè. Unione incerta e disoccupazione alle stelle. Mezzo mondo è alle prese con analfabetizzazione, fame e malattie. Esordisce così, no? Abbastanza generico. I politici spesso prendono a modello i governi del nord, Norvegia, USA e Canada. Perché ci ha messo la Norvegia? Voi non si capisce. Norvegia, USA e Canada. Tu prendi a modello la Norvegia, Parenzo, non lo so. Sì, forse per alcune cose. Cioè, non è che ti viene in mente un paese a modello, dici la Norvegia, no? Sì, magari. Senza... Forse per il mercato del lavoro, per le tutele dei lavoratori, per il welfare. Forse. Sì, forse si riferisce alla. No, forse si riferisce al caso Breivik, perché poi senti. Eppure, dov'è che hanno iniziato a sparare ai politici? Lui in realtà scrive i politici, ma a sparare ai politici. Proprio in un paese come il Canada, per quello che è successo l'altro giorno, no? Opera di un pazzo o di qualcuno che ha ritrovato la ragione? Cioè, lui ha il dubbio, Sibilia, che ci sia, che quello che ha sparato l'altro giorno in Canada è qualcuno che ha ritrovato la ragione. Tu capisci, no? La mia solidarietà, poi aggiunge, perché bisogna sempre aggiungerla questa cosa qui, la mia solidarietà a chi ha perso la vita nell'attentato. Poi però scrive, conclude, a chi vanno attribuite le colpe? Ma a chi vanno attribuite le colpe, amico mio? A chi vanno attribuite, Sibilia mio? Non c'è un uno che ha sparato, un pazzo, succede, che ha sparato, ha preso, ha fatto l'assalto al Parlamento, quello che è. Dai su, ragazzi, ma non si... ma come ti vengono in mente queste cose qua? Tu sei pagato dalla collettività, cittadino Sibilia, per scrivere queste minchiate. Beh, però stai, appunto, l'hai detta giusta, stai parlando di Sibilia, non di La Pira. Vabbè, ho capito, ma non è che Sibilia... No, cioè... No, no, voglio dirti, con tutto il rispetto, e chiedo scusa di aver tirato in ballo il compianto La Pira, ma tu stai parlando con un signore che si chiama Sibilia, non con un padre della patria e della Costituzione. Sibilia, Sibilia, Sibilia. Allora, sempre alla Camera, scontro leghisti Boldrini ieri, a un certo punto Fedriga della Lega si rivolge contro il Presidente della Camera, che io chiamo sempre il Presidente della Camera, il Presidente della Camera, il Presidente della Camera, basta con questa cosa, viene pure brutto la Presidentessa, la Presidente, bruttissimo, orrendo, il Presidente, maschio o femmina che sia, è uguale, basta, qualcuno ha proposto, mi fa diventare matto una cosa del genere, la discussione parlamentare sul linguaggio di genere, la signora Locatelli del Partito Democratico, ma occupati di altro, no? Occupati di altro, comunque. Fedriga, poi a un certo punto c'è l'inserimento di un altro leghista da dietro, sentirete, eh? State ben attenti a questa roba qui, attentissimi. Lei non è il presentatore di qualche talk show o di qualche talent show. Lei non è la spalla di Maria De Filippi. Lei è il, sì, presidente, un po' di riguardo, del Consiglio. Però, Presidente del Consiglio, per favore. Ma per lei, favore. Forse non è solo lei la spalla di Maria Di Filippi, ma anche la Presidente della Camera alla sua spalla. Guardi, lei si rivolga con rispetto. La richiamo all'ordine per la seconda volta. Presidente, guarda come conducevano i tuoi predecessori. Ma impara qualcosa da chi è stato lì prima di te, cazzo. Ma impara qualcosa da chi è stato lì prima di te, cazzo! Un leghista che giustamente basta con queste lezioncine. Ma il Parlamento è anche battaglia! Il Parlamento è anche toni forti! Ma altrimenti che ci stanno a fare? La premere il bottone? Sì, discussione, cioè poi a un certo punto uno interviene e fa delle metafore. Non è che ha fatto niente di grave il signor Fedriga della Lega Nord. Ha fatto un paragone, una battuta, adesso non mi ricordo nemmeno. Insomma, lei deve parlare con rispetto. Ma quale, che c'entra il rispetto? Ma che cosa vuole? Degli automi, la Boldrini vuole degli automi in aula, cioè è una cosa pazzesca. E quell'altro sta zitto, e Parenzo sta zitto, vabbè. Pronto? No, ma condivido appieno quello. Vabbè, ma stai zitto, ma partecipa, no? Che cazzo fai? Stai io zitto, quando, non lo so, cioè che stai facendo? Ti stai pulendo il culo? No, che stai facendo? Quando condivido io. Ma condivido non so, sembra che ti stai pulendo il culo, caso, non lo so. Molto cioè. Beh, adesso questo può essere anche che sia. Lo so. Ma allora cioè. Quando, ma ti voglio dire questo, allora quando anche questo sia accaduto, ti devi augurare che sia accaduto, perché sarebbe molto brutto. No, in questo momento. Ma tu lo sai che qualcuno ha scoperto solo adesso che è in crescita il fenomeno del turismo sessuale femminile? Cioè io leggo delle cose pazzesche, come se fossero state scoperte solamente adesso, no? Cioè dei settimanali, dei siti online pubblicano queste cose, turismo sessuale femminile, un fenomeno in crescita, ma hanno scritto decine e decine di inchieste su una cosa del genere. Sono ricche, over 45, approdano in mete esotiche, offrono aiuto economico e locale in cambio di sesso, ogni anno 600.000 donne vanno all'avventura. Perché recentemente un sito inglese ha pubblicato una ricerca sulle tardone che vanno in Kenya e che c'è? Che ridi? Fa ridere la cosa, fa ridere questo. Io ne vorrei trovare una però, raga, donne mature, chiamateci, over 60, chiamateci e raccontateci se questa roba è vera, se veramente esiste una migrazione anche di italiane verso, no, mete esotiche. Allora andiamo con qualcuno, dai, forza, ma non abbiamo sentito nessuno stasera ancora. Possibile, no? Matteo, provincia di Alessandria, vai, Matteo. Sì, ciao, buonasera. Dimmi. Buonasera, Cruciani e Parenzo. Sentendo la Boldrini prima, dovete andare voi due a fare Presidente del Senato e Presidente della Camera. No, guarda, con grande rispetto, preferisco stare qui. Ma perché, sai, siete diventati il Parlamento d'Italia, se dire. Guarda cosa cosa è successo con il discorso delle unioni gay. Avete fatto cambiare idea prima al Papa e alla Chiesa. Sono due o tre anni che andate avanti questa battaglia. Beh, adesso Berlusconi, cosa volete di più? Siete due grandi, no, lo dico seriamente. È l'unico modo, continuate con queste battaglie, andate avanti col discorso della depenalizzazione delle droghe, della legalizzazione della prostituzione. Adesso ci arriviamo a convincere Berlusca pure sulla legalizzazione della droga. Non ti preoccupare. Ma come un partito politico sulla legalizzazione della prostituzione avrete vita facile, mi sa, col Berlusca, penso. Ci trattano come un partito politico. Sono gli altri che dovete convincere, perché ormai si parla solamente più di spread, si parla solamente più di Europa, lì di euro. Spread, Europa, euro. Chi parla? Noi non parliamo mai di queste cose. Ma voi no, ma tutti gli altri mezzi di comunicazione, non ci sono più radicali a fare quelle battaglie. Andate avanti voi così, ragazzi. Non lo dico per lecarvi il sedere. Scusate, Ciao. Andrea, ciao. Firenze, Andrea. Pronto? Dimmi. Ciao, senti. Innanzitutto volevo fare i complimenti. No, basta, complimenti, ragazzi. Mi avete rotto i coglioni stasera. No, che? Due telefonate consecutive di complimenti. E che? Voglio battaglia, mica. Voi, a quello che sceglie i dischi. Ah, quello che sceglie i dischi. Vabbè, questo va bene, dai, forza però, avanti. È fantastico. E poi volevo spezzare avanti a favore vostro. Cioè, ragazzi, voi fate benissimo a fare parlare. Come si chiama? Le ha fatto polemica, insomma. Borghezio, tu dici. Borghezio, sì, quell'altro, il capo delle camicie grigie. E poi anche Razzi. Voi fate benissimo a fargli parlare. Però sai perché? Per un motivo molto semplice. Per capire se uno è intelligente o è cretino, basta lasciarlo parlare. Vabbè, questo d'accordo. Bisogna vedere se poi è cretino sul serio. Cioè, io dico solo una cosa. Marione Borghezio questa sera, invitato a servizio pubblico, era impensabile. Forse vogliono raccogliere un po' di pubblico in più. Non lo so, non è che Borghezio porta ascolti poi, Parenzo. Non è, diciamo la verità. Beh, no, ma guarda che ogni ospite è funzionale a quel di cui si parla. No, però io non voglio puntata... più sentire, non voglio più sentire polemiche. Nessuno mi deve dire, beh, no, sempre guarda, Borghezio. Tu hai ragione basta, a dire questa cosa. Ma dovresti rivolgere questa critica a quelli che lo hanno scritto, non invitare. Non invece al signor Adesso già è uscito, già è uscito da Cospia, Flash, Emilio Fede piange in diretta alla Zanzara su Radio 24 e dice di pensare al suicidio. Ragazzi, questo è successo, qualcuno mi ha accusato, anche l'ha istigato a questo, ma io sento le cose delle persone e le persone vengono fuori per quello che sono. Non ho istigato nessuno, figuriamoci istigo Emilio Fede a suicidarsi, manco l'ho visto che era collegato in diretta al telefono, cioè non è che lo so niente, ma ha scritto dei messaggi, lo sapevo affranto, dopodiché mi è venuta spontanea quella domanda perché so che è sul filo, ma non credo che faccia, gli ho mandato anche un messaggio adesso. Emilio, mi raccomando, non fare cazzate, non fare minchiate, siamo vicini a te, ti aiuteremo in tutti i modi, ma ti aiuteremo, è da tempo che ho in programma di farlo diventare l'inviato della Zanzara, se mi danno 4 lire lo faccio, anzi no, pure gratis, lo faccio diventare il grande inviato della Zanzara nei luoghi più incredibili, nei luoghi dove si fa la politica, in mezzo agli operai, in mezzo a... no, gli operai non ci sono più, mi sa, forse. Ciao, ciao. Got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Ora poi in questi casi, Parenzo, uno dice, no, siccome ti dicono vogliamo risentire questa cosa che ha detto Fede eccetera, non c'è niente di costruito, non mi rompete i coglioni su una cosa del genere, non mi rompete le palle, non c'è nulla di costruito, voi non sapete come si costruisce questa trasmissione, spesso si costruisce in maniera rocambolesca, spesso si costruisce in maniera caotica, perché sono caotico io, non perché sono caotici gli altri, dunque non c'è niente di costruito, perché non c'è niente di costruito, dunque è tutto spontaneo. Io Fede l'ho sentito un secondo oggi, dopodiché ci siamo mandati dei messaggi, sapevo in che lo stato in cui era, ha accettato di venire qui ed è venuto tutto spontaneo, l'abbiamo anche richiamato, dunque non c'è niente di costruito. Diciamo una cosa, non è che si piange a comando. Ma no, ma di che stiamo parlando? Dai, su, dai. Queste cose veramente mi fanno incazzare, ma non perché le considero, cioè perché non c'è veramente, sì, no, su questo hai ragione, sul 90.9% delle cose che sostieni aberranti, 90.9%. Vabbè, ma quello 90. Senti, però qui abbiamo un personaggio con cui combattere, un no, signore. No, ma canna tutto, dai, chiudi tutto. Come chiudi tutto? Scusa, che no, chiudo. No, di fronte a questo no, chiudi tutto. Ma di fronte a che? Di fronte a che? Chiudi tutto, di fronte. No, ma le accuse che qua mi arrivano, canna tutto. Ma roba pazzesca, dai. No, chiudi per sciopero, di mi avete stufato e chiudi improvvisamente la trasmissione. Chiudi. No, ma quale chiudi? Ti piacerebbe, no? Chiudi, cioè, ti piacerebbe così vai a, cena, vai a cullare guardi, il esatto, tuo bambino, esatto, vai esatto, a cullare esatto. Solo a questo pensi, a cullare, sì, a cullare. Sono alle 5. Ah, ma che cazzo, io perché io, quando mi sono alzato secondo te? Però aspetta, fermo tutto, fermo. Sì. Tu lo sai che c'è un signore che è stato consigliere regionale dei Verdi in Abruzzo? Sì. In Abruzzo per tanti anni, io non lo conoscevo, sì, ma ha un cognome abruzzese. Molto noto in Abruzzo, sì, e che è presidente degli animalisti italiani Onlus. Beh, io già divento pazzo, divento pazzo perché esiste una Onlus che si chiama Animalisti Italiani. Vado ai matti, vado ai matti, perché ci sono miliardi di Onlus che si richiamano gli animali. Mica rubano, vabbè, i soldi a te, ma o no, prendono i soldi, speriamo, a te, speriamo che non pigliano soldi dello Stato. Ma comunque. Come? Io voglio combattere con questo signore in maniera leale. Si chiama Walter Caporale. Buonasera. Sì, buonasera, salve dottor Cruciani, salve dottor Parenzo. Come sta, come sta signor Caporale? Io sto benissimo, non si preoccupi dottor Cruciani, io non mi suicido, non minaccerò mai. No, ma che c'entra questo? Mica, no, mica no, si deve suicidare adesso, non prenda queste cose come uno scherzo, perché no, sono cose serie. Dico, è sempre una cosa seria quando si tratta di persone di sensibilità, siccome però lei l'altro ieri per ben tre volte mi ha dato del cretino, io potrei essermi risentito, offeso. Beh, io do del cretino, aspetti, signor Caporale, io non penso che lei sia cretino in assoluto, adesso precisiamo le cose, ovviamente non la conosco, dunque non le posso dare il cretino in assoluto, per le cose che ho letto, e per le cose che abbiamo sentito sulla denuncia alla Litizzetto per maltrattamento di quel porcellino lì durante la trasmissione con Fazio, sinceramente secondo me lei ha detto delle cretinate, dunque per questo l'ho definita un cretino, ma un cretino, ecco, siamo relativamente alle cose che ha detto. Dottor Cruciani, mi deve scusare, ma se voler far rispettare le leggi nel nostro paese, sì, se voler far rispettare dentro la RAI le linee guida per la tutela degli animali che la RAI ha sottoscritto dal 2007. Le linee guida per la tutela degli animali. Non so, io già divento pazzo per il solo fatto, ma questo non è colpa sua ovviamente, però, per il solo fatto che esistono delle linee guida nella RAI per la tutela degli animali. Cioè fanno le peggiori porcherie alla RAI, succedono delle cose pazzesche, eppure ci sono le linee guida per la tutela degli animali. Guardi, sono così d'accordo con lei che io in genere la televisione non la vedo, se non ho la fortuna di poter vedere i programmi di TV News, Rai News, Sky News 24 e basta, non seguo i programmi. Beh, la Rai News è della Rai comunque. Sì, vabbè, dico, Rai, perché la litizzetta è demenziale. La litizzetta, no, oddio, quello è un programma che io seguivo perché è uno di quei programmi. Poi, da quando la litizzetta ha portato il porcellino, per lei è finito pure quel programma. No, io seguo lo stesso, perché apprezzo Fabio Fazio. E che vogliamo, dire del gufo l'altro giorno da coso? Che vogliamo perfetto. Dire? Allora, mi deve scusare, dottor Cruciani. No, ma aspetti, Caporale, un attimo. No, però, dottor Cruciani, lei mi deve anche fare. No, ma lei parlerà quanto. Lei parlerà, non c'è problema. Noi, però, abbiamo dei tempi. Che siamo alla radio e abbiamo la pubblicità, poi lei ha tutto il tempo che vuole per spiegare, ovviamente battagliamo un po' perché secondo me lei è fuori proprio da ogni contesto normale, c'è uno che perde il tempo a dire quel porcellino è stato trattato male oppure il gufo, secondo me insomma vabbè non c'è un cazzo da fare dalla mattina alla sera, poi mi dirà quello che fa nella vita, caro Caporale, eh? Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Che meraviglia, io sono da chi farmi corteggiare e che avrei corteggiato. Walter Caporale, presidente degli animalisti italiani Onlus, colui che ha denunciato la signora Littizzetto per la vicenda del maialino. Ma scusi, dottor Caporale, Cruciani, io le posso chiedere un attimo una cosa, soltanto una coerenza. So dimmi. Oscar Wilde diceva che la coerenza era virtù degli imbecilli, ma non fa niente. Allora io le cito due frasi rapidissime. Sì. Gli animali possiedono un soffio divino e noi un giorno li ritroveremo nel mistero di Cristo. Prima frase. Cioè, com'è la storia? Me la ripeta gli bene? Gli animali possiedono un soffio divino e noi un giorno li ritroveremo nel mistero di Cristo. Seconda frase, dobbiamo avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. Sì. Sa di chi? Allora, siccome lei ha detto che sono cretinerie quelle di cui noi animalisti ci occupiamo. No, quelle che ha detto lei, quelle che ha detto lei sul coso. Quelle che ho detto io di un maialino per cui il PM addirittura ha ravvisato gli estremi del reato. Il PM, ma guardi che il PM, si è ravvisato davvero l'ipotesi di un reato, è ancora più cretino di lei, secondo me, per questa cosa, se no mi querela, per questa cosa. Poi, però, allora, ecco, ma guardi, già sta passando un sacco di guai, come lei pensa più di me, Ferdinando Esposito, ma comunque sai chi l'ha detto? Chi? Il PM Ferdinando Esposito, che ha deciso di scrivere nel registro degli indagati la Littizzetto. E lei è contento che state iscritte nel registro degli indagati la Littizzetto? Io sono molto contento. Sai di chi sono quelle due frasi che le ho citato, di che parlano di diritti degli animali? Di Papa Giovanni Paolo II e di Papa Francesco. Allora i diritti animali dire? Non sono una moda, mi deve scusare, non sono un passatempo per cui io non c'ho un cazzo da fare, come diceva lei, allora non so che fare. Anziché, ma lei che fa nella vita, bambini, Caporale, che fa nella vita? Io mi occupo di politica come passione, sono stati 30 anni nei Verdi, ho fatto il consigliere regionale per 10 anni con passione, occupandomi di sanità. Ha fatto il politico, ma per carità, non c'è niente di male. Non sono mai stato denunciato, mai avuto condanne. No, vabbè, ma lei lo sa che abbiamo indagati in tutta Italia, adesso in Piemonte, in Abruzzo, il mio però scusi, Caporale, allora la cosa però è molto semplice. Lei, quel maialino portato lì per qualche minuto durante la trasmissione della lista, per 20 minuti, mi scusi, vabbè, per 20 minuti, quello che è un maialino portato dentro una gabbietta per 20 minuti, signor Caporale. Anestetizzato, terrorizzato. Ma quello lo dice lei, è vero che allora, è stato anestetizzato? No, mi deve scusare. È vero che è stato anestetizzato, perché... è stato drogato? Come faceva ad essere immobilizzato? Mi scusi, ma allora siccome si criticava il Porcellum, che è una legge che critichiamo tutti e che però noi abbiamo ancora perché noi non possiamo scegliere i nostri deputati, quella legge Porcellum, la Littizzetto poteva portare benissimo un maialino di peluche per prendere in giro il Porcellum, non c'era bisogno. Ma lei ha detto che ha sofferto. Mi scusi. Lei ha detto che ha sofferto. Ha sofferto perché sicuramente era anestetizzato, non si muoveva, era immobilizzato. Sicuramente questo lo dice lei che era immobilizzato. Lo dice lei che era. Ma guardi, credo che lo possa dire qualunque etologo del mondo veterinario, un maiale immobilizzato, fermo e terrorizzato con le luci, i riflettori, le urla. Poi la presa in giro. Io la Littizzetto la rispetto, però mi deve scusare. Ma lei la mette, secondo lei la Littizzetto è uguale, cioè come valore, no? Come persona? Secondo lei la mette a confronto sullo stesso piano di quel maialino, non perché è un maiale, sto dicendo, ma come, cioè l'essere umano, Littizzetto, secondo lei vale come quel maialino? Gli esseri umani sono tutti, gli animali sono esseri viventi, cioè non per sono cui secondo lei, no, ma ho capito, secondo lei la vita, uguale, la vita di quel maialino è uguale a quella della Littizzetto? La vita di tutti gli esseri viventi è uguale. Ma non è così, ma perché c'è la caccia? Allora perché esiste la caccia? Perché non si cacciano gli esseri umani? Lo so che lei ama molto la caccia. No, io non amo la caccia, avrei paura a sparare, però penso che la caccia vada mantenuta assolutamente, perché in alcuni casi. Perché nel 2014 c'è un retaggio culturale del passato. Mio nonno andava a caccia. Ma ne aveva bisogno. Io una volta sono andato con mio zio a caccia in Madagascar, in Africa. Beh, mi sono divertito moltissimo. Non a sparare, beh, sono rimasto. Il mese prossimo sono rimasto Kenya, dietro mentre mio zio sparava. Che cos'erano là? Come si chiamano le cose che si. No, le pernici, le. Forse mi piace perché io vado in Africa a salvare vite animali e mio zio va a cacciare col fucile, che deve fare? A me dispiace, ma pure in ospedale, che c'entra pure quelli che violentano le donne, cioè lei sta dicendo che un cacciatore è come un pedofilo? Il cacciatore uccide per divertirsi, cioè come un pedofilo? È crudeltà. Per me è crudeltà, perché cioè lei sta paragonando un cacciatore a un pedofilo? Ma certo cosa, caporale? Ma è una cosa pazzesca, dai, su. Animali, che cos'è? Ma io la faccio portare in tribunale davvero da questi cacciatori. Perfetto, ma io sarò contento. Guardi che non, le battaglie si fanno. Ma lei sta paragonando i cacciatori ai pedofili, No, guardi, la caccia è legalizzata, la pedofilia per fortuna no. Ma lei l'ha detto prima, adesso sta tirando indietro. Ha detto che per me è violenza. No, lei ha detto, ha detto come i pedofili, ma certo. Scusi, ma allora quello che violenta la donna non è un criminale che dovrebbe stare in galera. Su questo non c'è dubbio, che c'entra la violenza della donna con uno che spara un fagiolo? Però 40 anni fa esisteva, 40 anni fa le donne potevano essere violentate, stuprate, ammazzate, c'era il codice d'onore. Cioè noi le leggi le cambiamo. Ho capito, ma non è la stessa cosa. Ma gli animali non sono uguali agli esseri umani. Chi gliel'ha detto questo? Mi scusi. Secondo lei l'animale che lei non ha un cane o un gatto in casa, non soffre come lei, non è capace di provare. Ma certo che soffrono, infatti non sono a favore di ammazzare, io mica sono a favore dell'ammazzamento degli animali. Lei va a caccia in Madagascar. No, sono due cose diverse. La caccia è legalizzata, ormai come lei sa, non è più la caccia selvaggia, non è più la caccia. Dai, che vuol dire? Purtroppo è legalizzata, ma guardi che la caccia si può abolire, non ne risentirebbe nessuno. Noi ci siamo. In Italia esistono i richiami vivi, secondo lei va bene pure che questo Parlamento. No, non mi parla dei richiami vivi, che vuol dire richiami vivi? Sa che cosa Parenzo, vuol dire? Intervieni tu, ti prego. No, scusi, caporale, volevo dire questo, caporale, scusi 30 secondi, perché io già quando ho sentito che lei gioisce per il rinvio a giudizio per la vicenda del maialino, già lì mi giravano i coglioni, però lasciamo stare, perché invece la tutela degli animali, quella sì è una cosa seria, ma sono certo, d'accordo con lei, ma quella è una roba serissima, ma dire che il maialino, e meno male che non ha chiesto l'intervento dei RIS di Parma e dell'ex generale Garofano per far bonificare tutto lo studio e con l'umino al verificare se il povero maialino portato dentro, perché questo amico mio, questo caro amico mio animalista, questo no. Io divento matto quando sento questo. Matto. Scusi, lei lo sa che la Littizzetto è pagata con i soldi miei e suoi, non lavora in una TV privata come fate voi. Lei lavora in una TV pubblica ed è pagata milioni e milioni di euro ogni anno con i nostri soldi, quindi deve rispettare le leggi. Scusi, perché anche lei non ha denunciato Berlusconi per Dudu, che magari Dudu era trattato male, che ne sa, magari. Anche ma guardi che intanto la compagna, la Pasquale, la compagna di Berlusconi ama gli animali, ama i cani e magari pure la Littizzetto ama gli animali, anche a Vladimir Luxuria. Non credo, perché noi abbiamo chiesto un incontro alla Littizzetto il giorno dopo, prima di fare la denuncia, a Fabio Facci e ai conduttori. Se ne sono altamente fregati, perché loro ritengono che i diritti. Hanno sbagliato. Su questo le do ragione, perché probabilmente hanno fatto gli snob. Hanno fatto gli snob, che ce frega gli noi di stare. Perché gli snob, cioè questa intelligenza di sinistra che è intoccabile, per cui si può, possono fare quello che vogliono. Noi siamo un po' stanchi di questo modo di pensare. Perché 20 anni fa Enrico Montesano, che portò in trasmissione a Fantastico un animale, noi protestammo, lui il lunedì mi telefonò e il sabato dopo parlò di noi, disse non sapevo, mi scuso, comunque ne terremo conto. Enrico Montesano è stato un signore, tanto di cappello a Montesano, che aveva fatto quella che noi consideravamo una cappellata e che poi ne ha voluto parlare e ci ha voluto incontrare. Cioè, che male c'è a volersi confrontare come sta facendo lei? Lei ha detto che l'altro ieri mi stavate cercando per parlarmi. Sì. Caro Cruciani, sono io che vi ho cercato, perché lei non mi ha cercato l'altro ieri. Allora il confronto. Sì, sì, vabbè, ci hai cercato, noi ti abbiamo cercato, questo è uguale, ti avremmo cercato comunque, Caporale. Vabbè, dai, lei ha detto in trasmissione, lo stiamo cercando. Vabbè, ma è uguale, Caporale, lo stiamo cercando, tu hai cercato noi, vabbè, ma adesso questo non è importante. È chiaro, certo, che noi piace il confronto, però, Caporale, diamoci del tu, dai Walter, il problema fondamentale è uno solo. Tu caro sei, Giuseppe, tu sei un grande estremista animalista, perché tu pensi che gli animali e gli esseri umani sono la stessa cosa. Ma sono guarda, scusa, che Giuseppe, pensi, che pensi di quella Simonsen, quella là che dice che è fondamentale la ricerca sugli animali? Allora, io mi venerdì 31 ottobre ti invito, caro Giuseppe, a venire a Roma con Romina Power, faremo una conferenza per la campagna Stop Vivisection, è una campagna europea, ho capito, ma questa la signora Simonsen, Cristina Simonsen, sostiene che per combattere la sua malattia la ricerca sugli animali sia fondamentale. Ma come noi rispondi? Noi dimostreremo che non c'è bisogno di torturare, cioè, per cui che cos'è? Che cos'è una sfruttatrice? Che cos'è un'assassina pure lei? Cos'è? Lei è una persona che è convinta delle sue idee, a noi ci piacerebbe. Ma la stanno minacciando, la stanno minacciando. Ma vai a leggere le cose. No, tu lo sai che noi abbiamo fatto una ricerca sui primi che l'hanno minacciata su Facebook. Non esistevano. Erano dei fake. Erano dei cioè fake, si autodenuncia lei, si autoaccusa, si auto... No, come cazzo si dice? Tu sei una persona molto intelligente, tu sai che esistono delle lobby molto potenti, le più potenti al mondo, quali sono? Quelle delle armi e quelle chimico-farmaceutiche. In Italia lo scorso anno... Cioè lei è manipolata, quella ragazza là è manipolata. Non lei. Cioè la manipolano. No, chi fa le minacce dicendosi animalista? Io non posso... Io sono obiettore di coscienza. Ma guarda totale. Che ci stanno dei pazzi in giro, Caporale, che non hai idea. Ma guarda, io pure ricevo minacce, mi hanno bucato le ruote due volte, mi hanno fatto saltare. Ma la malattia che ha questa ragazza è vera o falsa? La malattia è sicuramente vera, come sono veri i metodi alternativi alla vivisezione. Io la invito a venire, invito te la ragazza a venire alla conferenza. Vabbè, ma il gufo, beh, lo facciamo adesso sicuramente. Vieni, qualcosa perché non vieni il 31 ottobre con Romina Power? Poi ti Caporale, però dimmi una cosa, Walter. Biglietti gratuiti per i suoi concerti. No, ma che me ne frega, con Albano in tutta Europa. Ma ci vado lo stesso, non c'è bisogno di Romina Power. Walter, spiegami. All'Arena di Verona. No, ma spiegami una cosa, Walter. No, ma spiegami, Parenzo, questo è fondamentale. Mentale. E il gufo di Max Giusti, il gufo di Max Giusti, che fine li facciamo fare a sto gufo? Guarda, la fine che devono fare gli animali è quella di essere rispettati. Cioè non possono essere portati in televisione. Devono essere rispettati. E il pappagallo, e il pappagallo di Tortora? Fortuna, beh, un conto era il pappagallo del grande Enzo Tortora. Ma che vuol dire? Che lei sta paragonando Insinna a Tortora? No, scusami, non confondiamo adesso la cioccolata con altre cose. Con la merda, perché dici tu. L'hai detto tu. No, io l'hai detto tu, non io. Io non vedo queste trasmissioni. Ma ho capito, ma quello che c'è fortuna. Sempre animale è... scusa, abbi pazienza. Allora, io ti dico soltanto che se adesso anche la Chiesa fa dei passi da gigante e riconosce che gli animali dai, hanno... Dai, su, ma avete, state cercando di portare in tribunale il tizietto per il maialino, dai, ma su. Ma sai che cosa riceverà lei? Ma il maiale me lo faccio arrosto, una bella braciola, una braccioletta, dai. Detto male che gli andrà, pagherà 2-3 mila euro di multa, ma poi avrà il secondo grado di giudizio. Vabbè, Parenzo, concludiamo con Caporale, che comunque combatte un grande. Premesso che io il maiale per motivi religiosi non lo mangio. Io lo mangio, non mi piace tantissimo, però lo mangio. No, e quindi gli auguro lunghissima vita. Tu sei pure vegano, Caporale, c'è pure sto difetto, sei pure vegano? Possiamo scegliere di non uccidere animali, come il matto, magari. Vabbè. Come Martino Parenzo, dai, che gli devi dire a Caporale? Ho premesso che io appunto il maiale non lo mangio per motivi religiosi, quindi gli auguro lunga vita. Se davvero quel pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per la signora Littizzetto, amico mio, hashtag tutto finito. Tutto! Ciao tutto Walter, finito. ci non sentiamo. Non ha chiesto il rinvio a giudizio, l'hai scritta nel registro degli indagati, dai. Giuseppe, l'ultima cosa, noi stiamo manifestando in Italia contro la macellazione rituale. Vabbè, adesso è una cosa lunga, dai, pubblicità. Perché? Ne parliamo un'altra volta, dai, Walter. Ma ne parliamo un'altra volta, dai, ciao. Spettacolare, spettacolare. ormai è tutto degradato. Pensa, ho il professore oggi su Twitter scatenato contro Berlusconi e l'apertura su gay immigrati. L'hai letto tu? Ma no, ma che cazzo hai letto? Figurati. No, ma non è che figurati se leggi, ma figurati, professore. Sì, di Berlusconi a nozze gay e extracomunitari, speculazione cinica e elettorale, tradimento del liberalismo peggio di quello di Fini. Carlo Taormina, rimane solo Grillo. Patetico Berlusconi, nozze gay extracomunitari a go-go. Ha ragione Alfano, Forza Italia né carne né pesce, è finita, c'è solo Grillo. Sai che dovremmo fare? Poi mi è venuta in mente una cosa, questa Taormina Grillino, un colpo di genio, vabbè. Paolo da Milano, dai Paolo, vai. Sì, Paolo, ma che stai a fare? Stai a fare un caffettino, una camomilla? Sì. Stai mangiando? Che stai facendo? Sto ascoltando il messaggio, la vostra trasmissione a radio, intanto buonasera. Però scusami Paolo, dove sei? Al viva voce? Dove sei? No, non sono in viva voce. Si sente tutto un rimbombo. Metti bene questo telefonino. Ho chiuso la porta della camera, c'era il rimbombo perché era in un ambiente ampio. Dimmi. Niente, siete sempre... Casa grande, casa grande. Molto grande. Casa grande, ricchezza, o no? Opulenza, diciamo. Opulenza, direi. È giusto, buono questo qua. Poi, che te frega dei poveri a te? Niente, giustamente. No, nulla, è una tristezza, fanno tristezza i poveri, no? Come no? Certamente. Come dice Pelzi. Bisogna far venire giù la lacrimuccia, bisogna sempre preoccuparsi dei poveri. Bisogna fare finta, come quelli che fanno finta, come Parenzo, ogni tanto fa finta, si preoccupa. La gente sta male, tanto che cazzo gliene frega. Ma io invece lo dico apertamente, invece lui no. Vabbè, comunque. Beh, oddio. Ognuno si preoccupa dei suoi, ognuno. Vabbè, allora. Fra poco rimettiamo fede, a grande richiesta. Appunto, era quello il riferimento. Dai. Niente, tutte le volte dovete sempre sdoganare qualche nome. Adesso da quella quell'onorevole che non si sa neanche se è onorevole, perché appunto chi? Onorevole maschio o femmina, quello del quando avete aperto la trasmissione, che vuole fare una giornata parlamentare per capire se uno è un ingegnere, un'ingegneressa o roba del genere. Sì. Non è del tutto sbagliato, ma sicuramente. Cioè, non è del tutto sbagliato cosa? Problemi. Cosa? Spiegami. Non è del tutto sbagliato definire se uno è un ingegnere, un'ingegneressa, un architetto, un'architetta o roba del genere. Ti prego, non è quello il problema della vita, ci mancherebbe. Però diciamo che anche quella è una cosa da mettere in ordine. Se non lo deve fare un parlamentare, chi è che lo deve fare? Ma che mettere in ordine? Non c'è niente da mettere in ordine, nulla che riguarda il linguaggio, niente! Sono delle puttanate inaudite, sono delle fissazioni di tardo femminismo e di sinistrismo patetico, di patetico sinistrismo e di rivendicazione di genere, che non hanno alcun senso, che veramente fanno, secondo me, peggiorano l'immagine di un'istituzione. C'è il presidente della Camera, che da quando è diventato presidente della Camera ci fa due palle così su questa questione della presidente, della presidentessa, della cosa di genere, fa disonora il suo ruolo. Questo è il, ma si occupasse di, non deve fare nulla. Il presidente della Camera deve solamente fare presiedere la Camera bene, tagliare ogni tanto qualche nastro proprio quando è necessario, punto e basta. Non è l'immagine di nulla, non deve dare lezioni su presidente, presidentessa, deve parlare il meno possibile. Questa trasmissione è assolutamente geniale. Just come in at number 25. I'm oh so happy, so glad to be alive. Everybody says it's gonna get to the top. Life is so easy when your record's hot. Allora, ragazzi, la premessa è questa. Dopo quello che è successo alla Zanzara, che fra poco risentiremo, ho mandato dei messaggi, ero in diretta, non potevo chiamare, a Emilio Fede, scrivendogli, adesso sto recuperando qui, ecco qua, ti abbraccio fortissimo, caro amico, saremo sempre con te, non fare cazzate, mi raccomando, ci sentiamo dopo. Non mi ha risposto, ma insomma, dai. Siamo tranquilli, eh? Questo è successo alla Zanzara tra le 7.25 e le 7.30 più o meno, 19.25, 19.30 più o meno, eh? Ti conosco e so che questa cosa ti provoca un dolore pazzesco. Non pensi, basta, facciamola finita. Ma ammazzo. L'ho pensato. Quando l'hai pensato? Anche un'ora fa, prima di parlare con voi. Ma veramente?

niente, Papa Francesco. Secondo me si sono inventati tutto. È impossibile che il Papa dica che è stata una partita meravigliosa. Ma stiamo scherzando. Comunque, secondo incubo, io sogno i sette colli, e su ognuno dei sette colli un enorme dito medio proteso verso il cielo, e sotto la scritta Italianen caput. E questo per me è insopportabile, è inammissibile, è vergognoso, mi viene nervoso. Vabbè, ma è impazzita la cancellieri, cioè, non... No, ma scusi, io pensavo che lei volesse intervenire per fare un commento sulla riforma. Senta, guardi Lorenzo, guardi, tutto ciò è catastrofico. Sai che dopo la partita sa dove sono andata? Ma che ha fatto lei? Che ha fatto? Dove è andata? No, io stavo nel mio ristorante. Dove sono andati i cacciatori del Bayern? Ma lei lo sa dove sono andati? Dove sono andati? Questo lo so. Sono venuti nel mio ristorante, la Gattapuglia, pensi? Ma che ristorante? Sì, che sono arrivati. Ma quando mai? Dai. Assolutamente sì. Però le posso dire una cosa con tutta sincerità, guardi. Cioè, ma ha visto in faccia, che ne so, uno come Ribéry, per esempio? Mamma mia, quanto è brutto! Mamma mia! Sai che stavo per finire all'ospedale? Mi è venuto un colpo e noi ci becchiamo sette pappine da ste facce da crucchi. Vabbè, ma ho capito, ma non è che... Vergognoso, inammissibile. Vabbè, va impazzita. Datemi dei tonnarelli cacio e pepe, anche la Gricia. Va impazzita, cioè, ha perso la testa. Ma non si riprende è più. È inammissibile, è assolutamente inammissibile. Arrivederci, allora, ci sentiamo. Vabbè, continua. Sì, buonanotte. Ciao, ciao. Ministro, arrivederci, a presto. Arrivederci. Che io sono un tossicodipendente della Zanzara, capito? Vi ascolto mattina, vi ascolto la sera in podcast, sempre vi ascolto. Caro Parenzo, prima di una rubrica scoppiettante su Italia paese di merda, beh, io voglio ripetere, per chi non l'avesse capito bene, la follia scritta dall'amico grillino, amico no, Carlo Sibilia. Poi adesso tu mi dirai, l'hai votati tu, eccetera, eccetera, le solite cose. Stavo per ricordarlo. Ecco, non abbiamo già detto, ho votato 5 Stelle alle passate elezioni. Sei un uomo che costantemente sbaglia. No, ma non sbaglio niente, l'ho fatto per altri motivi, certamente non per portare in Parlamento Carlo Sibilia. Posso capire che il mio voto ha contribuito a portare in Parlamento il signor Carlo Sibilia. Però di ciò non mi dispiace, perché in tutti i movimenti ci sono dei personaggi un po', come dire, no, per definirli con una parola, con un eufemismo un po' bizzarri, ecco non però, in tutti. Beh, sì. Questo Sibilia, sì, per motivi diversi. Signor Sibilia, Carlo Sibilia, sulla vicenda del Canada, sull'attacco al Canada, no? Scrive, prima dice che i paesi europei sono in difficoltà, mezzo mondo è alle prese con analfabetizzazione, fame, malattie, eccetera. Questo è anche vero. Dov'è che hanno iniziato a sparare i politici? Proprio in un paese come il Canada. Opera di un pazzo o di qualcuno che ha ritrovato la ragione? A chi vanno attribuite le colpe? Poi aggiunge la solidarietà a chi ha perso la vita, Le colpe sono di questo qua, signor Sibilia. Non ci sono colpe della società, non ci sono colpe del sistema. No, ma esistono i pazzi. Esistono quelli che non hanno... No, che hanno... non mi fate aggiungere altro, no? Non mi fate aggiungere altro. Lasciatemi cantare. Questa Italia è un'Italia di merda. Con la chitarra in mano. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Lasciatemi cantare. È uno stato di merda che andrebbe processato. Sono un italiano. Questa è la merda d'Italia. Sono un italiano. C'è un'Italia di merda. Lasciatemi cantare. Allora, ragazzi, quando sento queste cose mi viene veramente sangue al cervello. Cioè, mentre tutti voi che siete in macchina, che siete in taxi, che siete che state lavorando qui a Radio 24, altrove, sulla scrivania, siete col capochino. Vi fate un mazzo così per portare a casa la pagnotta, ecco che invece altri si procurano posti di lavoro con i soliti metodi, cioè dire la raccomandazione, ma quella proprio così smaccata. Allora, in Sicilia, figli di sindacalisti, sono stati assunti in massa alle poste attraverso il trucco dei contratti, che prima sono interinali e poi diventano stabili. E intanto sul sito delle Poste alcune migliaia di poveri stronzi partecipano a un bando per il reclutamento. Mentre questi partecipano al bando, i capi sindacali piazzavano figli e parenti col trucco, capito? In Sicilia. Su. È un paese di merda. Allora, il sito italia.it, ne abbiamo parlato più volte, Parenzo. L'altro giorno Gian Antonio Stella ha pubblicato un meraviglioso articolo su Quelle della Sera. 20 milioni, bisogna sempre ricordarlo e metterlo tra l'Italia paese di merda, nella rubrica che abbiamo istituito. 20 milioni di euro finora spesi e sostanzialmente buttati al cesso. Poi dice che non si. Ma è una cosa pazzesca! Non ha mai funzionato, non ha portato un turista in più in Italia. Traduzioni sbagliate, copia e incolla, casini, diatribe che finiscono in tribunale, dipendenti senza stipendio, il direttore nuovo che si è dimesso, l'ennesima sprecopoli italiana. Questa è la merda d'Italia, questo è. Ma torniamo in Sicilia perché a Palermo si è scoperto che timbrava il cartellino ma nello stesso tempo vendeva scarpe nel negozio gestito pensa un po' da chi? Da una parente. Dai, anzi dalla compagna, cioè timbrava il cartellino, un addetto a una partecipata. Poi ci sono tutte le partecipate in Sicilia. In questo caso la partecipata si chiama Seus. Intanto se ne andava, timbrava e se ne andava nel negozio della compagna a vendere con lei le scarpe. Ora io dico, se questo qua non lo cacciano, se questo è stato colto in flagrante, se questo non lo cacciano. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Francesco da Roma. Sì, buonasera Cruciani. Dimmi. Sono un particolare sulla Boldrini. A Boldrini sì, fa la sediosa, infatti ci sta che la si prenda in giro e Fiorello ci riesce molto bene. Però quando vuole essere chiamata la Presidente, in questo caso è particolare, ha ragione. Perché ha ragione per l'italiano corrente. Perché Presidente, come le parole cantante, governante, è un participio con ruolo di nome. E quindi può essere sia maschile che femminile. Lei dice la cantante Mina, non il cantante Mina. Dice la governante. Così la Presidente. Quindi è italiano corrente, non è come per esempio la ministra, che è un neologismo e anche i neologismi ci stanno. Quindi mi creda, quando dice lei il presidente, è lei che fa una figuraccia, ma non c'entra il sessismo qua, c'entra l'italiano corrente. E guardi che io non sono un linguista, sono un semplice uomo che sa l'italiano. Tutto no, qua. Ma Francesco, ma lei può chiamarla tranquillamente la presidente, infatti non, io non è che sto quando, dicendo, dire, ma io non ti sto dicendo, no, ma non è vero che è sbagliato, non c'è niente di sbagliato e niente di, in questi casi non c'è una regola. Il cantante Mina. Ma no, ma in questo caso suona male. Invece in questo caso suona male. Ma il presidente Iotti, al presidente Iotti, secondo quello che mi ricordo io, poi magari mi sbaglio, non sarebbe mai venuto in mente, tanto per citare un'altra donna di sinistra, di fare una battaglia sul fatto di essere chiamata la presidente Iotti. Ma la figura del presidente, è il presidente, donna o uomo che sia, ma non è perché uno mette una cosa al maschile, perché è così, punto, ma non c'è, non è una diminuzio, cioè non è un'offesa nei confronti della donna. Ma io infatti, io le dico semplicemente come italiano. Ma poi se lei vuole chiamare, se qualcuno la vuole chiamare la presidente, non è che dico no, non si deve fare, bisogna chiamare, no, ma io sono molto più aperto. La presidente è italiana. Ma sì, ma sarà anche la presidente sicuramente è italiana. Si usa poco perché poche sono le donne presidenti. Il problema è che ha fatto diventare di questa vicenda una questione istituzionale. Infatti ho detto, e questo è il punto, la si prende in giro e ci sta anche, però la presidente è correttissimo, guardi, non sto dicendo che non è corretto. Adesso non faccia però il pignolo con l'Accademia della Crusca, che non ce ne fotte nulla. Non è accademia, è italiano corrente, guardi, non è accademia. Sì, ma non è che se dico il presidente è sbagliato, normale. Non sono linguista io. Grazie Francesco. Prego. Grazie Stefano Mantova. Vai. Ci sono? Sì, vai, dimmi. Allora mando un fanculo in modo potente l'animalista deficiente che ha accomunato i cacciatori, e io sono un cacciatore, ai tenofili. Ecco. Lui è un emerito deficiente, perché lui è libero di amare gli animali fino che vuole, quanto vuole, come vuole. Può farsi letto il maialino della Littizzetto finché gli pare e piace, ma accomunare un cacciatore che rispetta le regole, e le regole le ha seguite qualcun altro, accomunare un cacciatore a un pedofilo vuol dire essere dei cretini totali. Io l'ho detto in diretta, non si possono paragonare i cacciatori ai pedofili, perché adesso questi gli faranno un mazzo. Lei è cacciatore, Stefano? Ma io non faccio un mazzo a nessuno, gli dico solo che è un deficiente, basta. Ma lei è un cacciatore? Certo sono cacciatore. Sì, sì, no, ma per carità, ma niente di strano. Certo, certo. Evidentemente vi considera degli assassini come considera assassini dei pedofili, però chiaramente il paragone è assurdo. Insomma, ecco, allora, siccome è un deficiente proprio perché non conosce la differenza tra uno che va a caccia e rispetta le leggi e uno che assassina qualcuno e non rispetta le leggi, quindi lui è un deficiente. Quindi, va bene. Il Tizzetto ci ha da letto. Grazie, Gino, provincia di Genova. Meno male, era ora, dopo aver sentito un mare di sciocchezze lì. Ma questo è Gino, il... Sì, il famoso Gino, cugino di Vincenzo Mollica. Ma dai, Gino, io non ci ho mai creduto fino signor, a fuori. Allora, ma sei ricomparso così al volo, Gino? No, perché non mi perché lì la Silvia e le altre ragazze ormai mi conoscono, mi tagliano sempre. Ma no, figurati. Io, signor Cruciani, le chiedo una cortesia, la prego. Dimmi, Gino, dimmi. Sono un uomo morto. Ma come è morto? Perché è morto? Perché è morto? Perché gli ho già detto, no? Ma basta con questa storia di Vincenzo Mollica, ma che ti frega di Vincenzo Mollica? Mi frega perché lo voglio a proposito del Canada, Vincenzo Mollica, mia zia, la sua mamma Noemi, sua nonna Noemi, sua mamma è l'Afra Mollica, che adesso in Calabria, a Motticella di Reggio Calabria, purtroppo l'hanno messa in una casa di cura, diglielo Vincenzo. Non ho capito, scusami, adesso di chi stai parlando? Noemi, chi è Noemi? La Noemi era la sorella di mia mamma. La sorella, che parentela ha con Mollica? Nonna di Vincenzo, la nonna di Vincenzo. Ah, ma chi è sto rumore dietro? Chi è che fa sto rumore dietro? Guarda, Beppe Cruciani, abbi pazienza. Mollica, una sera l'ho sentito quando lei l'ha richiamato, lui ha detto, io i parenti li ho negli Stati Uniti. Lui è stato in Canada, gli Stati Uniti non sa nemmeno dove siano, forse. E lui dei cugini qua in Italia, sai quanti ne ha? Ne quanti ha 80, ne ha? 90, 100. Ma come 80, 90, 100? Sì. Ma che vuol dire, signor Mollica? Dai, su. Allora, per favore, se lei mi fa una cortesia, io sono vecchio, ho 70 anni. Ma non è vecchio a 70 anni? Cioè, a 70 anni mica è vecchio lei, scusi. Ascolti, no, sono vecchio. Perché mi è morta una figlia, sono disperato. Ma quando mia è morta? Mia figlia era la cugina di Vincenzo. Ma quando è morta sta figlia? Sono già 6 anni. Vabbè, sei anni. Io vorrei incontrare. Sempre una tragedia, per carità, però 6 anni adesso non è che ce la può ricordare noi. No, ascolti, io vorrei. No, signor Cruciani, abbia pazienza. Io vorrei che lei riuscisse a ricontattare Vincenzo. Ah, ridaglia questo Vincenzo Mollica. E le dice e se per favore mi mette. Ci fa da ponte, lei è lì. Sarei contentissimo, non lo vuole fare, disconosce questa sua. Lei ripetiamo. Allora è un vergognoso. Allora ripetiamo, ripetiamo, Gino. Dice di essere cugino di Mollica, giusto? Sì, siamo figli di due sorelle. Vabbè. Ma chi è che sta parlando dietro? Mi passi sua madre. Mi passi no, sua madre. Sua madre, mia moglie, ci chiamiamo mamma e papà perché ci manca la figlia. E mia moglie che vuole pregare. Ma che lei chiama mamma la moglie? Ma chi è lei? Signor Cruciani, sono la moglie di Gino. Ma perché la chiama mamma allora? Perché c'è morto la nostra figlia, allora lui mi chiama mamma e io lo chiamo papà. Perché nessuno più ci chiama così e allora ci chiamiamo mamma e papà. Lui mi ha sempre chiamato mamma. Ma ho capito, ma se uno chiama mamma finisce tutto, anche un minimo di attrazione, un minimo di... Cruciani, che a me non mi piacciono le parole che dice, ma però io voglio mettere solo un caro questa faccenda qui. Allora, lei come si chiama innanzitutto? Come si chiama lei? Io mi chiamo Giovanna. Allora, signora Giovanna, lei che parentela ha o dice di avere con il signor Vincenzo Mollica? Allora, Vincenzo Mollica è il cugino di mio marito. Mia suocera è la nonna di Vincenzo erano sorelle, glielo giuro su Dio. Ma perché lui lo disconosce? È vero! Ma perché lui dice di no, ma allora? Ma noi non abbiamo bisogno di lui, perché non abbiamo Santa Margherita? Stiamo bene, siamo a casa nostra, siamo dei signori. Soltanto che Gino si è messo in testa perché Vincenzo ha detto che non è cugino, ma ne avrà mille. Ma lo sa che Gino erano 11 figli e questi sono fratelli, hanno tutti i figli, ma hanno tutti i figli. Aspetti, signora Giovanna, Parenzo, che vuoi? Signora Giovanna, mi scusi, con tutto il rispetto. E stai zitto che non capisco niente da allora, mi dica. No, ma signora Giovanna mia, con tutto il bene che io le posso volere a lei. Stai zitto! Parlo con mio marito adesso. certo. Ecco, brava. Che bella famiglia sei quella. Tu mi scusi, cara. Mi scusi. Con tutto il rispetto. Aspetta, aspetti, signora, sta parlando Parenzo. Si faccia. Giovanna, io voglio dire questo. Con tutto il rispetto. Non ha detto un cazzo oggi, fategli dire due cose, dai. Siete persone simpaticissime, vi vogliamo bene. Alza la voce. Ma a noi, ma che cazzo ci frega se siete parenti o no di Vincenzo Mollica, scusi. Questo pure è vero, questo pure è vero. Scusi, io è questo che non capisco, scusa. Cioè a noi, signor Giovanni, in fondo che ce ne frega se lei è parente nulla di Mollica o no? Perché io sono una donna seria, cioè 70 anni... Ecco, allora, comunque non ce ne frega nessuno, non me ne frega neanche a me, perché io, Vincenzo Mollica, può anche crepare, non me ne faccio niente. Comunque, mia suocera... Ma che deve fare? Gli faccia un appello, allora, gli faccia un appello qui. Va bene. Gli faccia un appello, non Gino, lei, Giovanna, faccia un appello a Mollica. No, ora ho preso la cornetta io. Vabbè, ma siete una banda di matti, dai. Cruciani, sia gentile, mi dia una mano. Io non ho dimestichezza con questi strumenti. Allora, rifai un altro appello, dai Gino, fai un altro appello a Vincenzo. A Vincenzo, forza. Vincenzo, allora io chiedo a Vincenzo, per favore, mio cugino, sì. Ce l'ho sulle ginocchia, le ho mandato la fotografia a casa della zia Gina, lì a Milano, vicino dove siete voi. Sì. Lo sai dove è via Bonarotti? Sì, lo so, però dimmi, fai questo appello veloce, vai. Faccio l'appello, Vincenzo Mollica, di contattarmi e di non negarsi quando lo cerchiamo. Ma che vuoi fare? Abbracciarlo, dargli un bacio? No, che vuoi fare? Lo vorrei abbracciare, vorrei parlare molto con lui delle nostre vicissitudini. Ma non è che vuoi i soldi, no? Ma che soldi, non voglio né soldi. Vabbè, ragazzi, ci aggiorniamo a domani, dai Gino, vediamo di fare qualcosa, dai. Qui c'è gente che ci voleva parlare del turismo sessuale, vabbè, domani, ragazzi. Donne, svegliatevi, chiamateci però, raccontateci le vostre esperienze con no, nei posti di turismo sessuale, così come si dice. Ciao. Che non ce la faccio più, io non vi sopporto, è un programma brutto, è brutto. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. È un gatto che ormai è tutto finito. Radio 24, la passione si sente.